E meno male che i cabaret Voltaire volgevano alla fine, perché abbiamo dovuto interrompere, perché inizia prove tecniche di trasmissione. Anche per oggi, 30 marzo 2022, 87.9 in modulazione di frequenza, www.ondarossa.info. Prove tecniche ritorna dopo 3 settimane di assenza, come qualcuno saprà, per problemi personali e quindi causa forzata, come si suol dire. Alle 22.30 ci sarà anche 25 o'clock. Allora, qualche salutino. Maia e Nicola Locci dalla Sardegna, Dario Righi di Chemi, di Progetto No Name, Cecilia Miradoli di Pindar, Cristiano Bocci di Chemical Resistance, Dez De Carlo, Violet Knox ci sta ascoltando da Boston, Narsh Run, ruotolo del progetto Narsh Run, che presto manderemo in onda. Alessandra è qui a Roma, Tabula Rasa, Cortina d'Ampezzo, Valerio Michetti e Trinity Bersiani della Grazia Obliqua e Fate to Grace. Saluto anche Daniele Ciullini, un riferimento dell'industrial e della sperimentazione da molti anni a questa parte. E poi il medico della peste. E a seguire Francesco Cornello. Cornelio Basilisco di Umanima. Enrico Ponzoni e Massimo Mascheroni di Sokunshu Butsu Project. Due antipodi, Jess Gallagher in Sicilia e Mariano Virdia in quel di Berlino. Salutiamo anche Serena, che si va ad iniziare riprendendo, come abbiamo fatto ad inizio marzo, questa compilation della Reverse Alignment, entità parallela alla Nespresso Sounds Group di Raffaele Pezzella, diciamo un'etichetta svedese che è stata rilevata e rinfrescata dal nostro Raffaele. Ebbene, New State of Flux non a caso contiene molti talenti provenienti dalla Scandinavia. E questa sera cominciamo con il norvegese Tafefobia. Di lui ci ascolteremo A Journey to the Sight World. Poi c'è una sorta di acronimo, RNGMNN, e di lui ci ascolteremo Zeskidali. Ketil Soraker, in arte Tafifobia, esponente del drone ambient norvegese, molti album su attivo, e questa è la sua partecipazione New State of Flux. Andiamo avanti con Ronny Engman, questo è il nome completo, è anche più facile da dire. Il nome invece artistico è RNGMNN, praticamente artisticamente ha tolto tutte le vocali. Ronny Engman. le increspature dark ambient che comunque ci rimandano sicuramente anche all'esperienza dei Corrieri Cosmici degli anni 70, Tangerine Dream e soci. Uno spirito ripreso in gran parte di questo New State of Flux, doppia compilation della Reverse Alignment, ideata quindi da Raffaele Pezzella, uscita sul finire del 2021. Qualche salutino, Like Awake, qui da Roma. Rosa La Vita, progetto anche lei elettronico industriale. Wunnus Island, Riccardo Martucci di Diaspora Psichica da Taranto. New State of Flux, destinata a rimanere in trasmissione per parecchie puntate, già che è una compilation abbastanza vasta e che merita di essere trasmessa per la maggior parte dei brani che la compongono. Comunque andiamo avanti e arriviamo qui in Italia. Gli alberi non vogliono, di Naresh Ran, anche lui lo avevamo lasciato qualche tempo fa. E andiamo a riprendere questo quattro tracce dagli umori in un certo senso anche esoterico industriale, molto ritualistico anche questo album di Naresh Ran. Ci ascolteremo la lunga quarta traccia dal nome Il Vampiro. il glaciale, l'algido tappeto sonoro di Nara Sheeran, Gli alberi non vogliono. Anche questo uscito nel dicembre del 2021, è questo artista toscano che andiamo anche a salutare. Il brano che ho scelto questa sera si intitolava Il vampiro. Un album che usciva per questa realtà emergente dal nome Sounds Against Humanity, una realtà italiana. E in Italia rimaniamo per una new entry, diciamo, qui di prove tecniche, che risponde al nome di Nido. Nido è un progetto musicale poetico solista di Yunita Prifti, di origine albanese. Nido è il luogo dove annidano suono e verbo, dallo spazio angusto e compresso nel quale convivono, pulsano i bassi, si liberano scie di timbri lucidi e mentali, i quali nutrono respiri e moti susseguiti da voci immerse sulla musica. Questo è l'inizio della presentazione di Nido, appunto di Yunita Prifti. L'album si chiama Carnica e prende spunto dalle Alpi Carniche, in quel del Friuli, territorio battuto durante la Prima Guerra Mondiale. Cominciamo ad ascoltarci comunque le prime due tracce, poi diremo altre due parole su questo album. Ci ascoltiamo Guardiana e Residual del Sé. Disturbo dal ricordo allargata raggiera, così in sosta dal senso di dire in quale forma sono. Una testa di chiodo, orma, attorno all'ultima ferita, un pezzo di polmone, ridurre dal peso in diffusione, per mezzo di voci si ripercuote dalle fonti di Collum, arriva l'urlo della sua sonnolenza improvvisa. Nebbia dal fondovale, detrito in sole, eclisse indolente, prosciugarsi in alba persa a lungo confini, sprofondarsi dentro strati di neve, innevato tronco in zona di zeide, terco fronti caldi, guardiana di un tratto in disuso. Thank you. dice dritto al cranio. Ti scendere dal centro dell'addome, deglutire l'intero raggio d'ombra e scoriarsi da indietro le spalle per quanto tempo se via. Quanto tempo sei via? Un altro uterino, bomba d'acqua, diurno stagno di uccelli a ridosso, gira elmo di un fare. Vento di maestri all'inverso d'altopiano, squarciare il valico, maciullarsi di croste modellate, diffondere il rilievo, sondare versanti d'immagine, stillare infilare di anelli entro fluidi di alberi intimi, un elevato stupore, librare quale proiezione del sé. Thank you. altre due parole su questo progetto musicale che porta il nome di Nido, si chiama dunque Carnica questo lavoro. Sostanzialmente una performance live registrata qui a Roma qualche tempo fa. Carnica prende il nome dunque, come dicevo prima, dalle Alpi Carniche, territorio battuto dalle portatrici carniche, le quali recavano viveri e munizioni ai soldati italiani durante la Prima Guerra Mondiale. Tra mille donne chiamate a operare sulle Alpi, l'unica a morire fu Maria Plosner Mentil sotto il tiro mortale di un cecchino austriaco il 15 febbraio del 1916. Al momento della morte vigeva su di lei la sua compagna di viaggio, Rosalia, la quale rimase ferita. I testi sono liberamente ispirati all'ultimo giorno di vita di Maria. E la parola carnica è pensata con un doppio senso e quindi contiene un duplice significato. Da un lato indica il luogo dove si svolgono le vicende della guerra, dall'altro indica la carne. La portatrice carnica, in un senso figurato, trasporta viveri verso i soldati, ovvero sia verso la vera e propria carne da macello nei territori della Carnica. Via sonante fluviale di resti confinari. E quindi metaforicamente si porta il loro dramma sulle spalle. Il tutto era questa unione tra poesia e musica dal nome Nido. Per flusso ematico invocano catene. Gionita Prifti e Stefano Di Trapani alle tastiere, presumo. Bette su. Un lavoro che esce per la My Own Private Records, label indipendente qui di Roma. Nido, che di questo la ringrazio anche in diretta, devo ringraziare Alessandra che mi ha reso edotto di questo piccolo capolavoro che andremo anche a conoscere nelle prossime settimane. 21:41, queste prove tecniche di trasmissione. Si lascia Nido, si lascia Carnica e andiamo da Daniele Ciullini. Breve. Molta strada ha percorso negli anni Daniele Ciullini. Peraltro ha avuto una pausa abbastanza lunga per quanto riguarda la sua arte ed è tornato da qualche annetto. Questa sera ci ascoltiamo due estratti da Great Events Are Coming del 2020. Event numero 4 e event numero 5. Erboso dal monte per alba, traina l'ullo per il campo rosso, ripido pendio percuote da torrenti rovesciati. Saluto Gionita Prifti ancora e per la precisione il progetto è tutto proveniente dalla sua creatività. La saluto già che era all'ascolto e la prossima settimana ci riandremo ad ascoltare due passaggi da Carnica. Lui e Daniele Ciullini. Much easier than you may suppose to find yourself drifting along a trail hypnotically headed what is commonly called the graveyard. It is much easier than you may suppose to find yourself drifting along a trail hypnotically headed what is commonly called the graveyard. Thank you. as an embryo in a whirlwind of... Murders and embryos in a whirlwind of... Murders and embryos in a whirlwind of... Ottimo il lavoro di ricerca svolto da Daniele Ciullini tra elettronica e sospensioni ambient con questi campionamenti che provengono chissà da dove, voci diciamo aliene e catturate in giro. E sono ingredienti sovente presenti nel materiale di Ciullini, compreso questo Great Events Are Coming. Vado a salutare anche Marco Milanesio, una vera e propria istituzione della sperimentazione. Anche questa sera molta Italia, e infatti proseguiamo con questa collaborazione tra Enrico Ponzoni e Massimo Mascheroni di Others, che porta il nome di Sokushibutsu Project. Finiamo la nostra analisi rispetto a 5980, patto generazionale, ricorderete, sorta di coveraggio molto molto particolare applicato da questi due artisti rispetto a cavalli di battaglia degli anni 50 e 80. Questa sera è il turno di The Wanderer, un vecchio brano di Donna Summer.